diciamo una cosa, se vi siete ascoltati come sono i concerti, generalmente si sta un po' più vicino al palco, soprattutto in questi bellissimi palchi dove non c'è niente davanti. Se voi vi avvicinate, noi godiamo di più e forse anche voi, quello speriamo. Thank you. grazie. Grazie mille a tutti voi e grazie in particolare ai Red Profile che hanno aperto questa serata. Un applauso a Cocchetta e a Red Profile, dai, ce la potete fare. Questi due erano due brani nuovi, e forse hai un altro brano nuovo, si chiama Rape in My Mind. We'll be right back. Posti come i Cocchetta sono sempre più rari in questo paese. Mi piacere tornare qua. Cocchetta volevo dedicare il prossimo brano che ha dato il track del nostro disco che è uscito qualche tempo fa. Si chiama I'm in the show! cazzo di pandemia, tutto sembra successo ieri, ma in realtà. E poi tempo fa abbiamo ristampato un disco che si chiama Different Beat. Potete trovare lì al banchetto dopo il concerto. Questo brano tratto da quell'album si chiama Roblex City. Start from all the streets of the crop of blues. 2022 avevo fatto tutta quella premessa proprio per, no? Far sì che come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! E mi fate incazzare ogni volta, come on! Vabbè, era una prova, quella era una prova, adesso c'è un sistema, ci potrecciamo sia fare. Come on, come on, get around, come on, take the sound, come on, you better drop the ball. It's all with me. Flower sei tanto bello. Flower sei tanto bello. Yes. visto che è qua a fare tutta l'uscita, rientro, uscita, rientro, un po' difficile. Continuiamo. Grazie Bologna, grazie Bologna, che spiegano un cazzo, perché Bologna, Milano, Modena sono pieni di stronzi, anche pieni di fascisti, e invece quelli che vengono qua sono la parte migliore di Milano, quindi grazie a voi che venite qua, grazie a voi, grazie a questa parte di Milano, grazie a questa parte d'Italia. Questo brano si chiama Night Ride, vi vedo tutti voi alla prossima. We'll be right back.